Allora, chiedo precisazione per il titolo, che la prima parte rimane sostanzialmente uguale, tra libertà tra politica e polizia, però il sottotitolo suona Dai limiti del potere ai limiti della libertà nell'Italia liberale. Vorrei vedere proprio come il fondo del periodo del secondo 800, in particolare nell'età della cosiddetta amministrazione, nell'età della prova, nell'età che inizia a partire dagli anni 70, cioè dal momento in cui lo Stato nazionale è tale, in particolare al momento dell'acquisizione dello Stato nazionale della Roma come capitale, come il dibattito politico-culturale dell'epoca cambi di referenti e più che parlare del problema dei limiti della libertà, così come era avvenuto nell'età dell'unificazione nazionale, si preferisca nella cultura diffusa del moderatismo italiano dell'epoca parlare del problema dei limiti della libertà stessa. E nel far questo mi scuso anche se darò molto l'impressione dello storico delle dottrine, perché ricorrerò a molti testi del dibattito politico-culturale dell'epoca. Però è altrettanto importante naturalmente il background nel quale questo si inserisce, anche se rimane come, molto, molto spesso come sfondo. E vorrei anche sottolineare il fatto che, pur facendo riferimento concreto a questi testi, in realtà io intendo fare riferimento come spia della cultura media dell'epoca, di un modo di sentire dell'epoca. Che la lotta per i concetti sia una tappa fondamentale della battaglia politica e sia anzi un'imprescindibile arma di quest'ultima, può costituire a volte una sorta di consapevolezza diffusa che, soprattutto in momenti di profonda trasformazione politico-costituzionale, viene portata alla ribalta soprattutto da parte dei più attenti artefici e osservatori di questi ultimi. Così, anche a proposito dell'Italia liberale, è possibile individuare negli ultimi decenni dell'Ottocento una sorta di Zeitgeist che porta da una parte a una rivisitazione dei concetti di battaglia che erano serviti negli anni precedenti e immediatamente successivi all'unificazione nazionale, e dall'altra all'individuazione di nuovi concetti capaci di servire da bandiera della nuova fase politica apertasi a partire dagli anni 70. Il compimento dell'unità, una volta raggiunto l'obiettivo di Roma capitale sul piano interno, così come sul piano internazionale l'Europa del dopo Sedan, insieme con lo spettro della Comune di Parigi, vengono reiteratamente chiamati in causa dall'intelligenza liberale come i sintomi più evidenti di una trasformazione politico-costituzionale in senso lato che necessita, oltre che di una politica nuova, attentamente commisurata alle odierne condizioni di fatto, anche di nuovi concetti riassuntivi della stessa. È uno degli intellettuali uomini politici italiani di maggior prestigio, De Sanctis, che afferma con forza come la politica, pari a tutte le altre scienze, cambia di contenuto secondo i tempi e il progresso. Altro è, dice, la politica del secolo XVIII, di parte del XIX, rispetto a quello degli ultimi decenni dell'Ottocento. Allora si trattava infatti di lottare per ottenere la Costituzione, cioè un sistema di garanzie della libertà, combattendo soprattutto la nobiltà e i cleri, i due puntelli del governo assoluto, sono parole di De Sanctis, naturalmente. Ora siamo invece in un'età diversa, un'età in cui, essendo lo statuto un dato di fatto, i compiti primari del politico si focalizzano intorno a un altro polo, quello dell'amministrazione, che puntigliosamente piegata su terreno italiano la concretezza dei problemi del presente, finisce per riorientare a sé l'intera problematica principe del liberalismo, quella della libertà. Così, se la lotta per l'unificazione nazionale contro i regimi assolutistici preunitari poteva trovare un'espressione sintetica proprio nel nome della Costituzione e quest'ultima si profilava quale sinonimo di libertà, ben diverso significato assume il binomio Costituzione-libertà agli occhi dei liberali italiani degli ultimi decenni dell'Ottocento. Più volte dichiarato sacro di un dottrinarismo di marca strettamente francese, il binomio suddetto viene infatti posto in discussione sulla base dell'esperienza della più recente storia europea. La stessa storia della Francia post-rivoluzionaria, improntata all'incessante passaggio da una Costituzione all'altra, è destinata a subire lo scacco di Sedan, rappresenterà una sorta di monito per il moderatismo italiano, nella sua costante ansia di fare quadrato intorno al centro degli schieramenti parlamentari, nel nome di una stabilità politica che appare garantita solo dalla creazione di un solido apparato amministrativo e finanziario. sarà un altro grande intellettuale, uomo politico, Silvio Spaventa, ma dichiarazioni simili sono molto frequenti nel dibattito dell'epoca, che all'inizio degli anni 80 dichiarerà: la libertà oggi deve cercarsi non tanto nella Costituzione e nelle leggi politiche, quanto nell'amministrazione e nelle leggi amministrative. Partiti e schieramenti politici, così come i più altri esponenti del pensiero politico liberale, chiameranno in causa d'ora in poi questo profondo riorientamento che segna il passaggio a un'età nella quale gradualmente e incessantemente, più che sul concetto di libertà, visto in connessione col problema dei limiti del potere da porre a livello di costituzione formale, si preferirà porre l'accento sul problema dei limiti della libertà. Ancora una volta De Sanctis, un articolo dal titolo significativo Il limite, appunto, della fine degli anni 70, riassume con perfetta cognizione di causa un momento di mutamento dei concetti di guida della battaglia politica liberale di fine secolo, laddove scrive, cito: il motto del secolo scorso era la libertà, e questo più o meno punto acquisito oltrepassato. Il motto del nostro secolo è il limite. Ormai non basta più dirsi liberale, la libertà è uno strumento, non è un fine, è una forma vuota se non ci mettiamo dentro un contenuto che è la nostra vita nazionale e i nostri ideali. E questo contenuto è il limite della libertà, ciò che la rende non un'idea astratta ma cosa viva. L'entusiasmo non basta più, ci vuole la scienza, un'educazione politica che presso noi è ancora un desiderio. Scienza e educazione politica sono dunque chiamate a definire quei limiti della libertà che soli possono servire a tracciare la via lungo la quale, secondo l'intenzione della classe politica moderata al potere, deve incamminarsi l'Italia della cosiddetta età della prova, dato che ormai è finito il tempo dell'età della poesia, e cioè del grande afflato dell'unificazione nazionale, età quest'ultima che aveva potuto effettivamente trovare un punto di coagulo intorno all'entusiasmo per gli ideali del costituzionalismo liberale. L'Italia della prosa è chiamata a risolvere una serie di urgenti questioni interne, dalla questione economica, quella amministrativa, a quella finanziaria, a quella sociale, questioni tutte che i moderati intenderanno affrontare attraverso una politica che, escludendo prioritariamente tutte le estreme, punti caso per caso a risolvere i singoli problemi sul tappeto, facendo perno su alleanze parlamentari contingenti, di volta in volta sostenute dal saldo perno del centro. La complessa trama delle questioni suddette, insieme con la prospettiva specifica propria del moderatismo italiano, rappresenta dunque il referente concreto di larga parte delle discussioni che il liberalismo italiano di fine secolo condurrà a proposito del significato odierno del concetto di libertà. Misurarsi con quest'ultimo significherà, in effetti, innanzitutto far emergere le specifiche coordinate politico-costituzionali all'interno delle quali esso si scrive oggi, sia a livello del processo generale della civiltà occidentale, sia per quanto concerne i compiti prioritari che spettano ora alla politica, soprattutto sulla scena nostrana. La lingua umana non ha parole che sia più variamente intesa, che abbia più volte modificato il proprio senso per vicende dei tempi e fra le varie genti umane, dice Lugnati, apre così il suo scritto sulla libertà nello Stato moderno, premesso al quinto volume della Biblioteca di Scienze Politiche dedicato appunto alla libertà. E gli specifici inoltre, si potrebbe quasi affermare che ciascun popolo, ciascuna età, ciascun individuo, per rozzo che sia, si fa un'idea propria della libertà, sebbene tutte queste idee abbiano un fondo comune. Studiare da lì il concetto di libertà, e cioè nella sua forma primitiva, vorrà dire vederlo espresso fondamentalmente nel desiderio intrito da parte di ciascun individuo di sbizzarrire ogni suo talento senza freni vincoli alcuno. Ben diverso è invece il concetto di libertà così come si conviene a una civiltà progredita, laddove essa appare inscindibilmente connessa ancora una volta al concetto di limite. Dice Lugnati, col progresso sociale aumentò e si diffuse il concetto degli svariati limiti della libertà, imposti gli uni dalla natura stessa dall'istinto, gli altri dalla necessità della convivenza sociale, le quali aumentano col progredire di questo. Così dalla libertà del selvaggio errante nelle foreste africane, dell'aborigeno randagio, dei deserti dell'Australia, libertà di belve, non di uomini, si viene sino alla libertà operosa, cosciente, feconda del cittadino anglosassone. Nelle prospettive appena delineate, è logico che Brugnati provi assai scarsa simpatia per tutti coloro, siano essi letterati, storici, filosofi o estensori delle stesse costituzioni, che hanno tentato di definire una volta per tutti il significato di libertà, e che egli preferisca invece tenere presenti il modello inglese, laddove i contenuti concreti prevalgono sulle forme. Egli chiuderà la breve disamina dei diversi tentativi con i quali in ogni tempo, in ogni paese, si è cercato di dare un'idea della libertà, citando quelle che definisce le belle parole adoperate da, in un'opera di Palmer nel diritto costituzionale, dove egli dice: la libertà è il grande impulso dei popoli odierni, è la religione dei tempi nostri e delle civiltà. Potrebbe assomigliarsi a un grande fiume ricco di acque benefiche, destinate a infertilire le terre in mezzo alle quali scorre maestoso. Ma perché ciò avvenga bisogna che ci sia tutto un sistema di argini, di canali e di chiuse per fronteggiare le piene, diffondere la vita e impedire gli sprecamenti. Tutto ciò è e deve essere l'opera della legge, che coordina le varie libertà dello Stato moderno. Brugnaschi sottolineerà di voler includere in questo volume della Biblioteca di Scienze Politiche proprio le opere, a suo avviso, più acconcia a cogliere al lettore l'idea della libertà moderna, delle sue esigenze, delle sue forme, del suo idealismo. In effetti, pone le diverse problematiche e dei differenti orientamenti metodologici, gli autori di questo quinto volume, per sua Guida, Libera, Constant, Lamoureux, Orlando, Montalcini, eccetera, seguiranno in larga misura lo schema appena evidenziato da Brugnaschi. Ripercorre brevemente il cammino della libertà occidentale nelle sue diverse forme storiche, al fine di mettere bene a fuoco le caratteristiche principali della libertà moderna, nelle sue connessioni essenziali con lo Stato moderno da una parte e con la legge dall'altra. Se Constant e Rabelais vengono unanimemente riconosciuti come maestri per aver puntato l'attenzione quale elemento fondamentale e rinunciabile della libertà dei moderni sulla differenza esistente tra libertà civile e libertà politica, questi stessi autori, insieme con altri, gli altri sono ricordati con lo stesso Brugnaschi, terranno ferma la nostra polemica contro ogni forma di sovranità alla greco antica, ereditata dalla rivoluzione francese dal suo capofila, Robespierre, definito fanatico allievo di Rousseau. È così che Brugnaschi, come gli altri autori che richiama raccolta in questo volume della sua biblioteca, preferirà parlare di libertà al plurale più che di libertà al singolare. L'orrore per la stanchezza di ogni sistema, sia quello dell'utopia o dell'ideologia, viene fatto risuonare da Brugnaschi anche a proposito della tematica della libertà. D'altra parte, vale forse la pena riprendere per l'ennesima volta le parole con le quali la Boulet, uno dei autori più cari, più citati nell'epoca, nel letterarismo italiano di fine secolo, conclude il suo celebre scritto su libertà antiche e libertà moderne, quando dice: quando sei giovane piacciono i sistemi, come piacciono la simmetria e l'unità, seduce l'idea di fare la felicità dei popoli con un colpo di verga magica, ed è questo il sogno di molti, la vita dei popoli, come quella dell'uomo, è la vita della diversità. La sola libertà può bastare a coprire i bisogni multipli e vari che nascono e si accendono a mille. La follia non giace nel comprenderne l'amore della libertà, la follia di credere in stelle di forme in una impotente e mortale funzionalità. Lo schema generale seguito nello scritto brugnaschiano, comunque essere assunto, a mio avviso, è indice emblematico di cui terranno fede la maggior parte degli scritti raccolti da Brugnaschi sulla libertà e della pubblicistica italiana di fine secolo, che si occupa di tale tematica. La libertà, o meglio, le libertà plurali, come preferiscono parlare questa pubblicistica, che si scagliano all'orizzonte dell'Italia di fine secolo, insomma sul calvaccio generale, ancora una volta allineato di linee fin dall'inizio di un discorso centrale, terzo capitolo che riassume tutta l'eredità del liberalismo italiano, nella sua ansia di prendere le distanze dal costituzionalismo di Marta, campo rivoluzionaria, e di procedere attraverso l'attento metro della storia anche in questo ambito. Dice Brugnaschi: ancora una volta nel parlare della libertà moderna io non intendo di riferire il mio ragionamento a quelle che fossero le nemiche dichiarate in alcune costituzioni, sconfessando e negando ogni rapporto col passato. A torto sempre, ma specialmente in materia di istituzioni politiche, si adopera l'ascia col martello contro tutti i grandi addentellati del tempo. E ancora, noi non vogliamo somigliare allo schiavo e credere alla libertà moderna importata nella notte d'estate, come sarebbe quella del 4 agosto 1789. Le sappiamo figuare del tempo e da questa nostra convinzione togliamo gli auspici, perché la mitologia è bugiarda e il tempo non sempre distrugge, sovente rispetto all'opera sua. Proclamare la libertà di quanti uomini sono al mondo e costringere a riconoscere con le armi può essere grande e gloriosa impresa, ma sempre durevole la libertà conquistata in secoli di lotta che ciascun cittadino è in grado di comprendere e apprezzare, che si svolge nella vita quotidiana, sa evitare gli eccessi per la coscienza del valore suo ed affermata timidamente con parole modeste, persino sottintesa, ma trova efficace garanzia in tutto l'ordinamento politico, delle leggi e dei costumi, eccetera. A proposito della libertà moderna del secolo XIX, che è non a caso il paragrafo conclusivo di questo capitolo, perché la presa in esame da Lugnati, Lugnati porterà ancora una volta alla ribalta una delle metafore a cui puntare e che già in precedenza aveva avuto l'occasione di far esaltare fino alle prime fasi del suo scritto, che ora gli serve invece per concludere il capitolo in oggetto, ancora una volta la metafora del fiume e della libertà e degli argini, che oggi sono assolutamente necessari a regolare e regolamentare insieme. Avviene nel mondo morale di Sublignato quel che nel mondo materiale. Il progresso si compie allo stesso modo. Il cittadino dello Stato moderno non può andare in mondo come il selvaggio, errare il suo talento, impadronirsi di ogni cosa che susciti la sua cupidigia ed è cipisens. Ma quale dominio nell'esercita sulla natura e quale raffinato molteplici si mette nelle opere della civiltà per soddisfare desideri, bisogni, capricci infinitamente più vari e raffinati, così si potrebbe dire di ciascuna libertà moderna. Il governo rappresentativo ci porge l'unico modo di esercitare quello che pareva supremo bene della città antica. I codici sempre più perfezionati e la giustizia sempre più indipendente e autorevole si assicurano dai legali minacci. La stampa cresciuta di misura la nostra potenza e la nostra influenza. Meglio ancora ripiegare il paragone già noto l'antico fiume che correva liberamente senza righe e senza argini per tutto il territorio e lo copriva d'acqua e lo buttava in una vasta palude o lo lasciava asciutto così da non colpernare nemmeno il primo bisogno della sete, l'antico fiume è stato tutto regolato con bacini conchiuse e dighe efficaci. Le sue acque scendono regolarmente, misuratamente, tutte le stagioni alimentano le fontane, permeando fra gli stati di Ariosa alimentano i canali di derivazione, ruscelli e rivoletti, senza numero che soffrono tutto il paese. Sulle sue rive, su tutti i bacini, i popoli non potevano trovarsi pure il rifugio, fuori di qualche elevata sporgenza ed erano agitati e decimati da febbre violente, oggi vivono tranquilli e sicuri nelle vende legate campane, dove crescono messe abbondanti negli opifici industriali che in luogo sono mossi dalla porta matrice dell'acqua o attendono ai commerci sulla cui corrente è veicolo facile e non spendioso. Queste opere mirabili che la scienza nei secoli ha dovuto costituendo sono le leggi, dentro le loro dighe, tra i loro argini, corre feconda, rigeneratrice perenne, l'acqua della libertà. All'interno del binomio legge e libertà, entrambi i termini sono costretti a scendere sul piano della storia, rinunciando anche a priorismi in nome di limiti che soli servono a garanzia di una produttiva concretezza. Lugnati continua infatti a volgere il paragone che le cava come segue. Come l'idraulica, norma generale, ma ciascun fiume esige speciali avvedimenti, stolto e sensato sarebbe chi volesse regolare il po' allo stesso modo della Senna o di altri fiumi, la stessa guida, così ciascun popolo ha leggi diverse, più o meno severe come le sue tradizioni, la sua educazione e i suoi bisogni. I fiumi che erano capricciosi, mutabili, fatali, saranno arginati e messi a profitto, quelli che corrono inutili fra argini enormi, violentati, per modo che tutte le acque corrano precipite al mare. E romperanno dovunque con la maggiore diversità la libertà potrà svolgersi dei diritti della legge. Il motto del limite, per dirla con De Sanctis, ritorna dunque costantemente in primo piano in Lugnati, così come da parte degli autori che gli vuole questo terzo volume della sua biblioteca e di tutti coloro che in Italia, attraverso il nuovo secolo, saranno chiamati a tentare di definire da vicino il significato della parola libertà. E qui io credo di poter concludere perché esaminavo in dettaglio, ma forse non c'è più tempo, proprio la voce libertà che viene scritta per il digesto italiano da Ugo, in cui ritornano perfettamente tutte le problematiche che ho appena rintracciato e illuminato perfettamente, secondo uno schema che è appunto lo schema diffuso dalla pubblicistica dell'epoca. E anche il protagonista Ugo, quindi scrivendo questa voce di libertà, ritorna in modo ossessivo, ossessionante, sempre sui problemi dei limiti. E li scrive, infatti, le libertà non si possono considerare come astrattezze, ma invece nella loro realtà effettiva e concreta. Ora, questo non è se lo statuto si distacca dagli elementi che quali le leggi ne traducono in atto delle disposizioni. E ancora, qui non siamo nelle scienze esatte, le eventualità che si presentano in pratica sono tali e tante, che è addirittura impossibile comprendere in pochi articoli in cui constano le carte costituzionali. Ancora una volta, tematica sempre ripetuta, la vita dei popoli è quanto mai complicata e si muove sotto l'influenza di un numero infinito e svariato di forze tra stanchi, di circostanze, di tradizioni, di principi. E principi astratti come le volontà degli uomini non possono superare questo insieme di agenti che fanno mutare l'ambiente e le condizioni dei popoli anche a brevi intervalli, eppure tra poche distanti in territorio. I diritti, dunque, che le leggi fondamentali garantiscono, devono essere posti in armonia con tali condizioni di fatto e non possono che imperfettamente venire enunciati. Però le leggi che li attuano e permettono di numerose disposizioni li adattano e li plasmano secondo le pubbliche esigenze e conformemente ai bisogni della comunità e dei singoli, sempre secondo la guida del principio di giustizia, eccetera. Avviandosi verso la conclusione della sua voce, libertà, appunto, Ugo non potrà che puntare l'attenzione sui compiti attuali degli Stati liberi, cioè sulla realtà istituzionale attraverso la quale prende corpo la libertà contemporanea. Ciò che viene alla ribalta è quell'opera di prevenzione lecita, ed anzi doverosa negli Stati liberi, che consiste, come descrive, nel preparare il terreno per l'amore delle istituzioni, nel rimuovere le varie cause che possono dar motivo a dispetto del precetto legislativo. La mera cornice dello Stato di diritto è ormai molto lontana, da dove Ugo sottolinea, in tal senso è saggio consiglio il provvedere allo sviluppo dell'educazione, togliere quei mali che danno luogo agli attriti tra le varie classi, curare che il governo e la pubblica amministrazione diano per primi l'esempio della legalità e le prove del suo lecito pensiero la loro rivolta al pubblico bene. Questa è una santa prevenzione che non ha a che fare con quella la quale per impedire il male restringe soverchiamente ed anzi finisce con ridurre nulla la libertà del privato. Ugo sembra ben consapevole delle obiezioni che i sostenitori della purezza dei principi del liberalismo potrebbero fare proprio nel senso del venir meno del possibile del Rex Star, e in questo senso avvertito che proprio nell'ultima parte della sua trattazione introduce il tema delle eccezioni che regolano l'attività del suo Stato libero, il riguardo all'incolumità e alla tutela delle patrie istituzioni, come le definisce, e un'attenta opera preventiva volta a parare possibili rischi posti da queste ultime, costituiscono in effetti la via precisa del limite che, realisticamente in tessuto di eccezioni, viene man mano disegnandosi tra politica, trattino, polizia statuale, trattino, libertà. Scrive Ugo, ora di fronte a questi pericoli è certo male minore quello di limitare in via preventiva l'azione dei singoli che non mettere alcun ostacolo e rendere omaggio alla libertà anche nella probabile evenienza di quei gravissimi disordini di quelle catastrofi. E perciò che il Zian Dio negli Stati liberi deve, sebbene in via di eccezione, accogliere il sistema preventivo, e così nella realtà fanno tutti i paesi, nessuno eccettuato, perché ovunque soffrono alcuni limiti preventivi e i vari diritti dei cittadini, la libertà di stampa come quello di riunione, di associazione e di altri. Ecco, allora a questo punto si apre il larghissimo problema che avevo accennato prima nell'intervento che ho fatto sulla relazione di Maurizio Ferravanti, proprio l'intrecciarsi stretto della problematica della libertà con il concetto della definizione del concetto di libertà, in quest'ottica non più una libertà che serve da portabandiera per la battaglia per l'ottenimento della Costituzione, ma una libertà, un concetto di libertà che serve per un'età nuova, l'età appunto dell'amministrazione. Ecco, allora lo stretto intrecciarsi del concetto di libertà e dei limiti che si prevede, con altri due concetti separabili da questo, quello di politica da una parte e di polizia dall'altra. Ed è significativissimo che, a mio avviso, che un autore come Sant'Angelo Sporto, chiamato per l'enciclopedia giuridica a dare la definizione del concetto di politica, scriva contemporaneamente il concetto di politica e di polizia. Sono pochissimi mesi della data stesura dell'una e dell'altra, e leghi costantemente un concetto all'altro. Definendo il concetto di politica, ripete proprio in modo ossessivo, è cura della politica, ma c'è la polizia di sicurezza e concorso della polizia giudiziaria sorvegliare sull'effettiva osservanza generale delle leggi da parte di tutti e di ciascuno. Poi ancora, è cura della politica, ma c'è la polizia amministrativa, attendere che nessuno dei cittadini frodi le reati. È cura della politica, ma c'è la polizia sanitaria, provvedere che i grandi mali siano posti grandi rimedi. E poi che si arrivi a che cosa? Attraverso questa connessione delle due sfere, arrivare alla composizione armonica degli interessi. Ecco, appunto, emerge questo altro problema, come mediare gli interessi concreti che emergono su una sfera politico e sociale, come mediare su questi, nella sfera della politica e della polizia insieme. E poi, appunto, ecco quello che dicevo ancora una volta prima: i Il fatto che la politica ritorna, a mio avviso, di molto rafforzata, con un terreno incomparabilmente vasto, laddove il diritto viene sempre costantemente perseguito, ma costantemente sembra sfuggire a una definizione che, riassuntiva di tutti gli infiniti compiti che si aprono nella sfera del politico e del sociale, appunto. Dice, scrive Sant'Angelo Spotto, così la politica aggiunge al diritto quello che è il sentimento al cervello, e ne mitiga i rigidi sillogismi e la fa entrare nella vita. Così quello che il diritto istituisce, la politica costituisce, cioè intende togliere le dissonanze, a trovare quello che vi ha di intimo, di comune nelle varie attività sociali. Se il diritto è organismo e ha definite le sue parti sostanziali, la politica è temperamento che quelle parti sviluppa secondo la razza, il clima, le circostanze, l'ambiente. E ancora una volta, ma cos'è la politica? Perché la domanda di fondo intorno alla quale ruota tutto questo è richiamata alla celebre definizione appunto di Gambetta, che in uno scatto oratorio dice: la politica se sei che chi ne si di fa, se sei che ne fa, se di. Ecco, allora, anche questo naturalmente è soltanto uno schema di lavoro che più che risolvere degli interrogativi ne pone altrettanto, perché è chiaro dal punto di vista di ciò che vogliono dire molti di questi autori. C'è naturalmente un riferimento, a mio avviso almeno, un riferimento molto stretto alla realtà politico-istituzionale dell'Italia di fine secolo, perché la risposta che molti di questi autori vogliono dare è che la politica di per sé non può essere che un'attenta opera di temperamento o di compromesso che il diritto non potrà mai soddisfare, e naturalmente che sotto ci sia evidentemente un progetto politico ben preciso, che è quello del trasformismo di segno fine secolo, è un dato di fatto molto, molto concreto che tiene da parte questa risposta.